Se è arrivato al 100 non stanziando soldi in più, i soldi stanziati per il terremoto in Emilia, cosiddetto dell'Emilia, sono del 100% per una cifra complessiva stimata in circa 6 miliardi. Però adesso dicono spostiamo il contributo, lo alziamo dall'80% al 100%. Ma i soldi sono sempre gli stessi. Hanno incrementato i fondi disponibili e poi in più abbiamo il problema dell'IVA, che un'impresa la può recuperare, un privato no. Servirebbe la defiscalizzazione dell'IVA, perché se tu mi dai il 100% di un danno di 100 più IVA, io non ho un danno di 100, ho un danno di 120 perché sono il privato e di conseguenza un danno di 120. Se tu mi dai il 100% ma sull'imponibile i 20 dell'IVA o i 10 dell'IVA, se ho un'abitazione al 10%, li devo sempre tirar fuori io.